Il cavallo e l'asino. Molto tempo fa, in una vecchia capanna vicino al fiume, viveva un lavandaio con il suo cavallo e il suo asino. Oh, oggi è stata una giornata così lunga. Sono tremendamente stanco. Di cosa sei così stanco? Io sono quello che deve portare tutto il carico. Tu porti solo il capo. Basta, ora smettila di piagnucolare e vai a dormire. Buonanotte. Quello che l'asino aveva detto era vero. Ogni mattina il lavandaio portava con sé i vestiti lavati ai villaggi vicini e riportava il bucato da lavare. Ovunque andasse, lui saliva a cavallo e metteva tutto il carico di vestiti sull'asino. Il povero asino aveva davvero una vita dura. Qualcosa da lavare oggi, signore? Oh, meno male che sei arrivato. È venuto mio fratello ieri con sua moglie e i suoi figli e sono pieno di cose da lavare. Nessun problema, signore. Sarà tutto pronto entro domani. Grazie. Qualcosa da lavare oggi, signora? Ah, Harry, i miei nipoti sono venuti per le vacanze. Giocano tutto il giorno e sporcano i loro vestiti così tanto, ti avverto. Avrai un sacco di cose da lavare. Nessun problema, signora. Sarà tutto pronto entro domani. Qualcosa da lavare oggi, signora? Di pulizia ieri e tutte le mie tende hanno bisogno di un lavaggio. Saranno pronte per domani? Nessun problema, signora. Sarà tutto pronto entro domani. E così il lavandaio continuava ad andare di porta in porta a raccogliere il bucato del giorno. Sembrava che tutti avessero ospiti o una festa o un po' di pulizie da fare. Caricò tutto quanto sul povero asino. Ah, oggi ci sono troppi pacchi. Non so come bilanciarli sulla schiena del povero animale. Devo camminare accanto all'asino e tenerlo sotto controllo. Niente deve cadere per terra. Quindi, invece di andare a cavallo, il lavandaio camminò insieme all'asino. Il povero asino doveva lottare per camminare. Il suo carico era così pesante che temeva potesse farlo cadere. Il giorno si fece più caldo e il lavandaio era stanco. Perbacco, è una giornata calda e tutto questo camminare mi sta rendendo stanco. Ci mancava questa. Abbiamo così tanto lavoro da fare, ma assolutamente dobbiamo riposare per un po'. Ehi, cavallo! Cosa c'è? Per favore, oggi il mio carico è così pesante che sento che la mia schiena si romperà. Oh, per favore, aiutami a portarlo. Oggi nemmeno il capo ti sta cavalcando. Per favore, prendi un po' del mio carico, vuoi? Assolutamente no. Il mio lavoro è quello di portare il capo. Il tuo lavoro è quello di portare il carico. Chiaro? È semplice. Mio povero amico, sono così dispiaciuto. Non avrei dovuto mai caricarti così tanto. Perché non ne ho messo un po' sul cavallo? Mi dispiace.